Leva sulle vie della città e a casa frettolosa andavi tu. Offrì l'ombrello e con semplicità qualcosa dissi, non ricordo più. E tu la dolce offerta non sapesti rifiutare, e fino al tuo portone ti lasciasti accompagnare. E tippe tippe com'era bello, com'era bello in due sotto l'ombrello. Avevi gli occhi azzurri e di cappello, che cosa? Un bel mazzo lì di fior. E allora quel mazzo lì di fior ti viene proprio dalla montagna. Dicesti sì, non fatelo bagnare, se mi volete accompagnare. E tippe tippe tippe com'era bello, com'era bello in due sotto l'ombrello. E tippe tippe tippe un ritornello, cantavano felici i nostri cuori, cantavano felici i nostri cuori. Dimmi, dimmi. Ti ricordi a maggio ci sposammo e fu così che unimmo per la vita i nostri cuori. Ricordi amore quante emozioni. Oh che emozioni, correva la stazione sotto la pioggia di baci e fiori. Vedi amore, amore su fammi riparare, se no il mio velo si può asciugare. E dimmi, dimmi, dimmi com'era bello, com'era bello in due sotto l'ombrello. E tippe tippe tippe un ritornello, cantavano felici i nostri cuori, cantavano felici i nostri cuori. Ma dopo Giorgio dovemmo separarci con no? gran dolore. Eh sì, un giorno fui chiamato militare, ma dopo un anno ci abbracciamo. Finalmente! Un mazzo lì sotto il nevicare, stringendo il nostro buco sul tuo cuore. L'ombrello ardisti ansiosa, mi donasti in braccio a me il bambino, eh? Allora era un frugolino biondo con gli occhioni, come te. E tippe tippe tippe com'era bello, no, com'era bello in tre sotto l'ombrello. E tippe tippe col modello, come con la bella della vita, come tu. Ma chi si ricorda più? Dopo il maschietto, la femminuccia. E da quel dì lasciamo le pazzia, almeno quattro le vuoi contare. E tippe tippe tippe, ma è sempre bello, seppure siamo sei sotto l'ombrello. Sei rosi e un solo ritornello, la vita è bella di felicità, la vita è bella di felicità. E tippe tippe tippe, e tippe tippe tippe, e tippe tippe tippe, e tippe tippe tippe.